Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Ma vai, ma vieni, ma chi sono, Pirletti, dimmi, chi sono, altro che la tua ruota. Nothing last, did my best. È la seconda parte di Eclettica, quella che state ascoltando sulle frequenze di Rock FM, usando questo termine, frequenze di Rock FM, nel senso più lato possibile. Infatti si parla di frequenze terrestri, si parla di satellite, si parla di podcasting e si parla di streaming. Queste sono tendenzialmente, a parte la variante peer casting dello streaming, le quattro modalità di ascolto possibili per quanto riguarda Eclettica. Avevo lanciato un sondaggio ormai quasi 3 settimane fa, ho raccolto i dati, li ho riassunti anche per coloro che sono iscritti alla lista nera. Ve li dico anche a voi che siete in questo momento sintonizzati, dicendovi che mi ha colpito molto il dato del podcasting, perché siamo attorno, in questo momento sto andando a memoria, al 66% di ascolto per il podcasting. Poi c'è l'etere, poi un 10% circa di streaming, e per quanto riguarda il satellite veramente solo qualche punto percentuale. Ma il dato che mi ha veramente colpito è l'alto utilizzo del podcasting. Questo mi ha veramente colpito. Come mi ha colpito la musica degli Urla Aubin Polen, duo di Colonia che ha aperto questa seconda parte da un album, ed è il terzo della loro carriera, intitolato Health and Welfare, che esce per la Tom Lab nel mese di febbraio, dal quale ci siamo ascoltati Wanderlust, una delle poche canzoni all'interno di un disco che ben poche volte presenta brani strutturati secondo la forma canzone. Una canzone, Wanderlust, come già vi ho detto, in cui è presente, diciamo, l'elemento che caratterizza da sempre la musica degli Urla Aubin Polen. Vi rimando alla playlist ovviamente per vedere come esattamente è scritto questo nome. Tratto caratteristico che è il grezzo rimbombare opprimente che abbiamo sentito anche all'interno di questo brano. Ci trasferiamo ora su un nuovo disco che però è la rivisitazione di uno vecchio, ovvero sia del nuovo per Asmari Kiri di My Brightest Diamond, ovvero sia Sarah Warden, per cui vi ho regalato anche i biglietti di questi giorni. Dipende se ascoltate in diretta via radio, ascoltate in differita via podcasting, se sono giorni futuri o giorni passati. L'intero disco è stato remixato, il suo intero disco precedente è stato remixato, ovvero sia Bring Me The Down, è stato reinventato in Tear It Down. Ci sono ben 13 remix e noi ci ascoltiamo quello che nell'ordine scelto è il numero 9, il remix di Something of an End, dalla mano di David Keith e NC47. Prima neve dell'anno. Stavolta è arrivata a fine novembre. Gloria e io al risveglio abbiamo trovato un paio di fragili centimetri bianchi sui rami della quercia davanti alle finestre del bagno, sul serpeggiante viale d'accesso e sul cerchio di prato che il viale racchiude, con le foglie ancora da rastrellare, l'erba ancora verde. Alla vista della neve ho cercato dentro di me qualche traccia dell'allegria infantile e non l'ho trovata. Solo la ravvivata coscienza di essere indietro con i miei lavoretti e un indistinto terrore del tempo in sé, il tempo che macina le stagioni e che ora mi presentava questa sua ultima offerta, questo nuovo pesante giorno radioso, come un altro pasto briosamente servito in ospedale a un paziente inappetente. Questo era l'incipit di Verso la fine del tempo, di John Updike. To be a little fool. Time to sit. Se vi chiedessi da quale luogo geografico proviene questo gruppo, sono sicuro che non sbagliereste. Sono inglesi, per la precisione di Sheffield, l'ennesima nuova produzione che giunge dalla Rough Trade nelle mie mani. In questo caso si chiamano The Long Blondes, quintetto capitanato da Kate Jackson, di cui abbiamo sentito la voce in questa Giddy Stratospheres all'interno di Eclettica, che prosegue dopo avervi ricordato che prima delle Long Blondes ci siamo ascoltati gli italiani Home con Perfect Born Actress, con un artista che si presenta con un nome d'arte, Rafter, e di cui avreste potuto sentire le sue musiche, per esempio, se guardate il Super Bowl oppure se avete guardato i giochi olimpici, perché soprattutto si dedica a musiche per queste tipologie di eventi, musiche assolutamente istituzionali. Probabilmente ne aveva le scatole così piene che ha deciso di fare un disco di pop stralunato. Ha trovato interesse da parte della Asthmatic Kitty, quindi il secondo disco Asthmatic Kitty di questa parte di Eclettica, e ha deciso di intitolare questo disco di pop stralunato, ripeto, Music for Total Chickens, musica per galline totali. Anche lui ha deciso di vestirsi da gallina sulla copertina del disco. Noi ci ascoltiamo la traccia numero 2, si intitola Hope. Your hopes up high. I can't. My spirit's broken. Don't let your dreams die. They have. My spirit's broken. You can get better if you try. E con Rafter siamo quasi arrivati alla chiusura anche di questa seconda parte. Ci arriviamo effettivamente con un disco che vi avevo preannunciato già settimana scorsa, parlandovi del nuovo disco dei Romani Fumisteri e preannunciandovi appunto una cover di un brano di Paolo Conte, ovvero sia Bartali. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma la birra fa gola. Questo giorno appiccicoso di caucciù, stavo seduto sopra un paracarro, stavo pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che io descriverti io non saprei. Come che io mi fermi qui. Le donne a volte, sai, sono scontrose, ma forse ha voglia di farla pipì. Tramonta questo cielo in arancione e si gonfia dei ricordi che non sai. Mi piacerebbe star qui sullo stradone. Bartali, scalpitando sui miei sandali, dalla curva spunterà quegli occhi tristi da italiano allegro. Tra i francesi che si incazzano e le palle ancora girano. E tu che fai? Vogliamo andare al cinema, vai al cinema, ci tu. Eclettica, fine della seconda parte.